Mix 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno, bentrovati a Mix24. Abbiamo sentito nel giornale radio alcuni momenti del primo dibattito andato in onda questa notte tra Hillary Clinton e Donald Trump. Ce ne saranno altri due, come tutti sappiamo, prima del voto. Ma intanto l'era di Obama si sta chiudendo. Per fare un bilancio di quest'epoca abbiamo con noi il professor Romano Prodi. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, professore, intanto, secondo lei chi è stato il vincitore del duello di questa notte? Ma io non l'ho sentito, devo stare a quanto dicono tutti gli opinionisti, i giornali, ho visto adesso Financial Times, tutti danno un netto vantaggio della Hillary. Senta, ma saranno i dibattiti TV a decidere secondo lei? Dicono che un terzo dei voti è deciso dai dibattiti TV. Un tempo era più della metà, adesso è diminuito, sì. Però è una roba enorme. Enorme, certo. Enorme, sì. Senta, intanto facciamo un'epoca, un bilancio dell'epoca di Obama, mettendola a confronto con quello che è stato il suo più grande antagonista, cioè Putin, perché oggi è tra loro che si consuma una vera guerra. Senta qui. Nella provincia di Aleppo le strade sono così piene di detriti che neanche più le ambulanze riescono a passare. Vladimir Putin a tutto campo. Sono queste le persone che volete sostenere? Gente che non solo uccide i propri nemici, ma che ne apre anche i corpi. Cerca di ottenere la gloria perduta con l'uso della forza, ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando della Russia di Putin. L'ambasciatrice degli Stati Uniti ha accusato la Russia di abusare del proprio potere di veto. Quando la Russia sostiene il falso, noi dobbiamo denunciarlo. Quello che la Russia sta facendo non è controterrorismo, ma barbarie. Oltre 200.000 persone ad Aleppo sono diventate prigioniere di gruppi terroristici, sostiene l'ambasciatore russo all'ONU. Insomma, professor Prodi, uno scontro avvenuto all'ONU, uno scontro durissimo, no? Sì, quasi come quello tra Trump e Hillary, quindi scontri duri in politica non è che sia una cosa nuova. Ma la Russia sta cambiando strategia? Non dà più spazio al negoziato con gli americani, è così? No, la Russia non ha interesse in questo momento a dare spazio, ma sa benissimo, almeno questo è quello che io penso, che se non c'è un accordo fra russi e americani, il problema siriano non verrà mai risolto e le tensioni aumenteranno sempre. Ecco. Qualcosa di fatale questo. Senta, professore, gli Stati Uniti però sono stati finora, o si sono posti come i gendarmi del mondo, però proprio sulla politica estera hanno sbagliato molto. Non sono riusciti a gestire il mondo multipolare. È davvero difficile? Difficilissimo, ma anche perché non hanno riconosciuto il mondo multipolare, cioè Obama, l'ONU, ha detto siamo il primo esercito del mondo, difenderemo sempre il nostro interesse nazionale. E questo è un non può Obama politicamente al suo interno dire passiamo al mondo multipolare. Certo. Però nello stesso tempo la società americana non tollera più il ritorno dei cadaveri, i repubblicani, i democratici non riescono più a sostenere la possibilità di avere dei ragazzi morti che tornano. Quindi c'è questa grande contraddizione nella politica americana. Certo. Senta, ma facciamo un esempio per andare nel concreto. Prendiamo la Siria, appunto lei accennava. Mentre Putin è sempre stato coerente, ovvero sempre stato difensore di Assad, Obama ha cambiato idea molte volte. Secondo lei perché questa oscillazione così grande? Ah, per il motivo che le ho detto prima. Ah, per quello. Per vincere hanno tutte e due hanno un nemico il terrorista. Per vincere il terrorista ci vuole un esercito di terra, certo. Gli scarponi. Certo. E gli scarponi li ha solo Assad. Assad tradizionalmente era nemico degli americani e quindi i russi si sono trovati benissimo nella posizione di dire io sono amico di chi ha l'esercito e sono nemico dei terroristi. Gli americani sono in posizione asimmetrica, io sono nemico dei terroristi ma non ho la forza di chi ha l'esercito. Senta, Presidente, però Barack Obama, sempre per continuare con gli esempi e provare a capire, dopo il discorso famosissimo all'Università del Cairo, ha promosso le primavere arabe che si sono trasformate nelle tragedie arabe. Qui qual è stato l'errore? Cos'è che non ha capito Obama? Beh, il discorso del Cairo, secondo me, c'entra poco in un certo senso con le primavere arabe, nel senso che nel Cairo, a Cairo aveva detto faremo una grande politica per l'Africa, faremo un orientamento nuovo della nostra politica estera, e questo non è stato possibile. Le primavere arabe, più che a favorite, non poteva assolutamente contrastarle, e poi gli sono scappate di mano, insomma, non sono state dirette dagli americani. No, però un'altra incapacità di intervento nella politica estera. Insomma, l'idea di esportare la democrazia è un'utopia, forse addirittura sbagliata. Questa io l'ho sempre ritenuta sbagliata, al discorso di Bush e Blair che volevano esportare la democrazia in Iraq. L'unica democrazia esportata, poi si dice quello che vuole, è quando abbiamo allargato l'Unione Europea e l'ex paese dell'Unione Sovietica, perché si è discusso, perché i popoli hanno parlato, perché si è andato di fronte ai parlamenti, perché c'è stata una... Ecco, così si esporta la democrazia, con i diritti e non con gli eserciti. E adesso vediamo che però anche quell'allargamento lì, quell'Europa lì ha i suoi problemi giganteschi. Certamente, ma è un cambiamento di quei popoli, voglio dire, certo. C'è un rispetto alla democrazia. Non c'è dubbio. Senta, Barack Obama ha promosso anche la rivoluzione in Ucraina, lo ricordiamo tutti, ed è stato anche quello un fattore di destabilizzazione nell'Eurasia. Come giudica oggi i fatti di Kiev visti con un po' di distanza? Ma l'errore dell'Ucraina è un errore bilaterale, cioè è stata presa come un campo di battaglia della tensione russo-americana, mentre l'Ucraina non può che essere un paese indipendente e un paese ponte. Quindi l'errore folle di Obama, cioè di Obama, di tutta la storia americana, perché certo. Era Bush prima, poi vedremo, perché il problema di Obama è l'eredità di Bush, certo, anche. Tenga presente. Ma io, l'ultimo atto del mio governo, ero già stato sfiduciato tra l'altro nel 2008, è stato quello di votare contro, insieme a Francia e Germania, alla proposta di Bush di allargare la NATO all'Ucraina e alla Georgia. Certo. Perché? Proprio perché la Russia vede la NATO come il grande nemico, no? Come l'aggressore. E allora si devono rispettare i cuscinetti. No? E l'Ucraina ne è una. E l'Ucraina ne è una. Certo. E i paesi europei saggiamente impedirono che andasse nella NATO. Ma nello stesso tempo... Putin e la Russia premono sulle regioni orientali e ne fanno anche di questo un campo di battaglia. Ecco. Cioè, lì c'è proprio l'errore simmetrico tipico della vecchia guerra fredda. Certo. Senta, però in Libia, sempre per continuare l'analisi di questi comportamenti, insomma, non felici in politica estera, anzi veramente sbagliati, in Libia, dopo aver assecondato i francesi e gli inglesi nell'intenzione di liberarsi di Gheddafi, adesso Obama dice mi sono sbagliato. Insomma, anche il disordine del Mediterraneo è imputabile alle oscillazioni della politica estera americana. Questo è un capolavoro, perché ormai tutti fanno la guerra e poi si pentono. Certo. Quando lei legge il rapporto su Blair della guerra in Iraq del Parlamento inglese, è terribile. Il rapporto recentissimo della Camera dei Comuni sulla guerra in Libia è terribile. Obama stesso si pente, ma insomma, la smettiamo di fare la guerra e poi pentirsi. Come si fa a smettere di fare la guerra e poi pentirsi? Sono gli interessi militari, petroliferi, che spingono prima a fare le guerre e poi a pentirsi? Esattamente, molto più che petroliferi. Sono i grandi interessi di influenza, tra cui anche il petrolio. Ecco. Sì. Ma la guerra di Libia è stata certamente una guerra antica come tipo di sapore. No? Sì, ma scusi, può essere Putin allora oggi un elemento di stabilizzazione del Mediterraneo? Beh, senza un accordo con Putin è difficile stabilizzare il Mediterraneo, ecco. Però evidentemente la Russia oggi ha meno potere dell'Unione Sovietica, ecco. In questi tempi, molto meno potere evidentemente. Sentiamo questo profilo di Putin. Vladimir Putin, ex capo del KGB e presidente della Russia dal 1999. Ha ereditato il paese che fu guidato da Mikhail Gorbaciov e poi da Boris Yeltsin dopo la caduta dell'Unione Sovietica. ha costruito il gigante energetico russo, rilanciato la forza diplomatica e militare di un paese che dopo il crollo del muro era in ginocchio. Time nel 2007 lo ha eletto personaggio dell'anno, per molti è l'uomo più potente del mondo. Sulla prima pagina del New York Times del 2013 ha scritto: «È finita l'era dell'eccezionalismo americano». Dice di sé: «La strada a Leningrado, 50 anni fa, mi ha insegnato una lezione. Se la rissa è inevitabile, colpisci per primo». Ecco, Presidente Prodi, lei che lo conosce bene Putin, lo riconosce in questo affresco? Ah certo, se la frase ultima è lui, è sveltissimo, intendiamoci, ha anche meno problemi, non ha mica le elezioni che gli sono sul collo, la Duma la controlla bene, si fa anche presto a fare la politica estera quando la fai tu da solo. Qui è una grande asimmetria che Cina e Russia hanno nei confronti dei paesi occidentali fortunatamente democratici, però questo della velocità di Putin non c'è alcun dubbio. Però le vorrei dire una cosa, lì è successo un deterioramento che io ho vissuto e che avrei cercato di evitare nei rapporti tra Est e Ovest. Vede, quando apparve all'orizzonte Putin mi venne a trovare Gorbaciov e mi disse: sta salendo un uomo nella politica mondiale che ha un curriculum, quello che avete letto voi, sì. Però guardate che è l'unico che può salvare la Russia e legarla all'Occidente. Questo mi disse, e nei primi anni la cooperazione fu è stata vera, sì. Ecco, ma e poi successivamente c'è stato questo deterioramento, ma fino all'incredibile errore strategico di spingere sempre di più la Russia in un rapporto con la Cina. Certo. Senta, ma gli americani, perché gli americani si erano addormentati sull'idea di una Russia povera in vendita dopo la caduta del muro di Berlino. Monopolarismo. Hanno sottovalutato il nazionalismo russo. Evidentemente, la madre Russia l'ha sottovalutato, ma soprattutto la santa madre Russia. Perché, ecco, ma hanno Russia sopravvalutato, vede, cioè l'America è di gran lunga il paese più potente del mondo. Sì. È che, e per il motivo che l'ho detto prima, e per il cambiamento del mondo, non lo può dominare da sola. Tutto qua. Sì, però i russi sembravano spariti dalla politica estera, poi nel 2013 c'è stata la svolta. Putin e il Papa hanno fermato l'annunciato intervento degli Stati Uniti in Siria. Avevano detto: domani bombardiamo, dopodomani. È stata la svolta che ha cambiato il passo della politica estera russa, quella? No, non è stato un passo progressivo. Cioè la consapevolezza crescente di avere un'economia con dei problemi, eccetera, ma di ritornare ad essere prima una grande potenza regionale e poi una potenza mondiale. Ripeto, non a livello dell'Unione Sovietica, ma a livello molto elevato. Beh, però quando si è ripresa la Crimea, infatti Putin ha detto: è tornata la Russia. È stato più lo slogan che altro, perché l'Unione Sovietica era, cioè, tornata la Russia, non l'Unione Sovietica. Senta, Presidente, il generale francese De Gaulle parlava di un'Europa dall'Atlantico agli Urali. Si sta realizzando adesso sotto l'egida di Putin? No. L'Unione Europea, nonostante i suoi problemi, è economicamente estremamente forte e la Russia ha bisogno dell'Europa. Perché ha bisogno dell'Europa la Russia, come noi abbiamo bisogno della Russia per materie prime. La Russia ha ancora più di noi bisogno dell'Europa, perché la sua struttura, la modernizzazione della sua economia non può essere fatta da sola. Quello che mi preoccupa è che cerchi questa modernizzazione verso la Cina, da sola non la può fare. Ecco, ma la NATO in questo quadro è uno strumento di coesione per l'Occidente o un ostacolo al rapporto con la Russia? La NATO è sostanzialmente uno strumento americano, insomma. Ecco, cioè, che resto, difende gli interessi americani NATO, e basta. Il resto della NATO ha visto come le difficoltà per l'esercito europeo, per le alternative, come sono complicate, no? E d'altra parte lo è anche, e in questo Obama aveva perfettamente ragione, perché gli europei non vogliono poi, sono contentissimi di non pagare il prezzo della loro difesa. Ecco, però intanto la Germania si sta riarmando. Questo cosa significa? Mica tanto. No? Un po' sì, però. Un po', l'esercito europeo più potente rimane ancora quello britannico, chiamiamolo europeo se vuole, ma insomma la Germania spende ancora in armamenti. Ma col fatto che l'economia russa dipende quasi completamente dalle esportazioni, dalle sue esportazioni, e che il petrolio adesso è bassissimo, ecco, questo collasso del prezzo del barile può essere una strategia americana fatta in accordo con i paesi arabi alleati? No, perché il collasso dipende dal fatto che oggettivamente la produzione con shale oil e altre produzioni dell'Arabia Saudita sono aumentate fortissimo negli ultimi anni, quindi è cambiata la realtà delle cose. Però evidentemente anche una botta alla Russia da parte americana ci stava bene, ma non è stato questo il motivo dell'abbassamento del prezzo del petrolio. Poi l'America si è aggiunto il prezzo da 90, le sanzioni, dicendo allora il petrolio si è abbassato, ci diamo un bel po' una botta con le sanzioni e la Russia è a posto. Ma hanno senso queste sanzioni ancora? Le sanzioni non hanno alcun senso, ma non hanno avuto mai senso le sanzioni. Le sanzioni fanno soffrire i popoli e, come sempre, li fanno unire ai loro governi, cioè fanno sì che il governo sia reputato come martire. Le sanzioni hanno fatto benissimo a Putin, male al popolo russo e bene a Putin. Certo. Senta, Obama però ha affrontato, parlando di politica interna, una crisi finanziaria mostruosa, e i numeri dell'economia americana oggi invece sono buoni. Obama ha rifiutato l'austerity imposta all'Europa, l'economia è ripartita. Dobbiamo farlo anche noi. Beh, lei mi ha fatto la domanda sulla politica estera, su quella interna, rovescia tutto. Obama è stato estremamente bravo. Il giorno dopo, l'America è stata la causa della crisi. Il giorno dopo, Obama ha messo sul tavolo 800 miliardi di dollari e sono usciti per primi dalla crisi. Noi non abbiamo fatto nulla per via dell'austerità, per via degli errori della politica. Solo dopo 5 anni c'è questo piano Juncker che ancora non è stato speso, e quindi evidentemente chi non fa nulla rimane al palo. E quindi Obama, ottimo presidente per gli americani, pessimo per gli europei. Sì, pessimo. Voglio dire, l'eredità di Bush era un'eredità. Vabbè, 8 anni però, 8 anni ha avuto per gestirla. Problemi interi della società americana non erano mica piccoli, li abbiamo visti. Certo. Ecco Mario, hai una domanda rapida per il professor Prodi? Sì, buongiorno professore. Buongiorno a voi. La domanda è questa, voglio riagganciarmi al suo ultimo intervento, cioè l'America oggi è percorsa da tensioni razziali, una sorta di guerra civile strisciante che è quasi paradossale se pensiamo che tutto questo accade proprio sotto la presidenza di Obama, il primo presidente nero della storia. Lei si è fatto un'idea su questo fenomeno? Ma un'idea specifica e particolare no, però devo prima tener conto che le tensioni razziali in America ci sono sempre state, sempre gravissime, e anche più gravi di quelle di oggi in alcuni punti. Secondo, oggi sono ramificate perché la diffusione delle armi rende qualsiasi matto capace di fare cose gravissime, ecco. E poi io credo che evidentemente il presidente nero, come dice lei, ha radicalizzato le tensioni. Certo. Perché chi si aspettava di più è deluso, gli altri scontenti si arrabbiano e la radicalizzazione fa passi in avanti. Pietrangelo, hai anche tu una domanda rapida? Sì, professor Prodi, la Russia è un'aggregazione continentale con una forte identità cristiana e una vocazione eurasiatica. È di fatto però un'autocrazia. Lei come se lo immagina il futuro dopo Putin, dopo di lui, cosa ci sarà? Putin 2. Mi sembra chiara la risposta. Quindi una dittatura ereditaria? Se il clima è ancora questo, è inevitabile. Per questo che conviene, secondo me, al futuro della democrazia russa e al futuro quindi nostro, avere quello che io chiamo una peace. Presidente, le faccio io un'ultima domanda che è obbligata. Ieri è stata decisa la data del referendum. Ecco, lei, ho letto che non si è pronunciato ancora. Adesso ha le idee più chiare? io ho le idee, le ho chiarissime, poi non mi pronuncio sotto tortura. Neanche sotto tortura? E perché? Perché neanche sotto tortura? Ma perché sono... godo felicemente il ruolo di osservatore da 7 anni, ormai quanti sono, no? Un po' di più anche. Sono felice, sto bene, mi diverto a pensare perché devo mettermi in mezzo a questa cosa, in una rissa che è più dura di quella di stanotte. Ah, vabbè. Grazie Presidente, speriamo di averla ancora per commentare fatti dell'agenda globale. 800 24 00 24 per i vostri interventi, 349 238 6666 gli sms. Intanto Gloria Guerriera ci chiude questa prima parte con cosa? Oggi Giovanni, una canzone per ricordare a chi va verso l'autunno tronfio di una bella conquista estiva, che in amore ci si stufa, anche degli angeli. Umberto Balsamo, L'angelo azzurro. Ecco, oggi naturalmente lo ricordo, è il compleanno di Francesco Totti, il capitano compie 40 anni, 25 passati con la maglia giallorossa. La storia di Francesco Totti, subito dopo la pubblicità e la canzone. Un discorso che non smette, la chiarezza nei tuoi occhi, le parole affascinanti che si dicono due amanti, ma davvero siamo noi? Se sei tu l'angelo azzurro, questo azzurro non mi piace, la bellezza non mi dice le parole che vorrei, quanti baci e tradimenti, lacrimoni e pentimenti, fan di te una donna sola che da sola resterà. Con il sole e con la pioggia ti bagnavi sempre tu, ero pronto ad asciugarti ma non ce la faccio più. E per chiudere il discorso voglio dirti amore mio, questo è un arrivederci e non è certo un addio. Sarà facile incontrarsi, educato salutarsi, quell'azzurro di sicuro non mi incanterà mai più.